Noi non abbiamo il tempo, noi siamo nel tempo. Albert Mayer. Bene, tornati in diretta, Città del Capo, seconda parte del blog appunto 451 frammentisonori.noblogs.org, chiaramente 451 frammenti sonori in compagnia di Eliseo Scarpa e Max Macchia. Ecco, mettiamo anche un po' più d'ormone. Una voce che prende forma nel corso della puntata, dunque può avere delle modificazioni perché noi ci spostiamo, sì. Siamo dei soggetti mobili, non rimaniamo fermi nella stessa postazione. E infatti vedete adesso la voce sta prendendo corpo e piano piano riuscirà a ottenere Max quello che vorrebbe ottenere dalla sua vita, dalla nostra vita, dalla vita di tutti. Sì, delle cose bellissime, delle cose meravigliose. Dunque siamo qui, ma ci siamo quasi, via. Sì, ricordiamo, scusa Max, interrompo ovviamente il blog, nel senso che tu l'hai già nominato, ma è molto più semplice: andate su Google o qualsiasi motore di ricerca, cliccate 451 frammenti sonori e troverete subito il No Blogs. Dentro avrete le notizie connesse alle trasmissioni ormai di questi ultimi 3 mesi, con la playlist dei brani che abbiamo mandato e la possibilità soprattutto di riascoltare le trasmissioni per coloro che ad esempio non hanno la possibilità di seguirla in diretta e notturna. Già molte persone conoscenti ci hanno detto che questo è una cosa utile per loro, che vorrebbero appunto conoscere, riascoltare, avere informazioni riguardante questo tipo di trasmissione. Dunque avete anche la possibilità in podcast di ascoltare le trasmissioni registrate. E da questa piccola presentazione ricordiamo il tema di stasera. Stasera abbiamo iniziato sulla tematica dedicata all'acoustic drone, che io ho voluto chiamare droni acustici, in battaglia, in dialettica con il caro Max Macchia, che non voleva l'utilizzazione del termine drone. Ma una cronistoria, dai, però vabbè, ci sta. Abbiamo litigato, abbiamo delle botte, pietre, sì, comunque va bene. Siamo schiaffeggiati. Ecco. Appunto, e acoustic drone, ovviamente dimensioni droniche, che per coloro che non sanno il termine in inglese, drone vuol dire in italiano, la trasposizione è bordone, un suono fisso, continuo, che ovviamente svolge un effetto anche ipnotico, lisergico in alcuni casi e ciclico per alcuni frammenti musicali. E l'acustico, ovviamente il tema acustico riportato appunto su questo drone sonoro. E abbiamo aperto con James Blackshaw, che sentiamo ancora in sottofondo, per poi arrivare a Ben Frost, per passare poi con i due progetti paralleli, Broken Consort e Clawback, e arrivare poi col brano conclusivo della prima parte con Zina Parkins e Ikue Mori con il disco del 2004 Phantom. Bene, avete sentito anche una strana voce, che poi tanto strana non è, quella di Albert Mayer. Vi ricordiamo che tra 2 settimane sì, dovremo avere una registrazione appunto del grande compositore di computer music, e non solo, allievo del gigantesco Pietro Grossi. E tra l'altro probabilmente ci sarà anche uno special dedicato a Pietro Grossi, e poi seguirà appunto una trasmissione con ospite Albert Mayer. Bisogna capire qua se potrà venire in diretta oppure registreremo, quindi insomma in quel senso lì vediamo un po' cosa riusciamo a fare all'ultimo momento. Noi non abbiamo il tempo, noi siamo nel tempo, Albert Mayer crea appunto questa opera concettuale, mettendola, allestendola, una sorta di installazione mobile in vari punti del nord Italia. Per questo, fino a questo momento, comunque, ha deciso di spostare sicuramente la faccenda in maniera itinerante, quindi sposterà anche in altre parti d'Italia e perché no anche fuori dall'Italia, visto che insomma ha un carattere piuttosto internazionale sia la musica di Albert Mayer sia questa opera concettuale, che appunto prevede questa sorta di spot e anche appunto varie installazioni con questa scritta, questa frase, appunto ripetiamo: noi non abbiamo il tempo, noi siamo nel tempo, che ce la dice lunga anche sul nostro ego smisurato, e magari invece bisognerebbe misurare in maniera differente, appunto non scriteriata come tante volte si fa, appunto pensando di avere il tempo. In realtà appunto sono veramente grandi stronzate, siamo nel tempo, che è cosa ben ben diversa. Quindi vabbè, vi ricordiamo appunto nelle prossime trasmissioni Grossi, Mayer, eccetera eccetera. E ovviamente apriamo la seconda parte dopo questo omaggio assolutamente importante rispetto ad Albert Mayer, e andiamo a trovare la formazione che rappresenta, diciamo, un po' il punto più importante dell'incrocio tra musica folk e musica dronica. Parliamo dei Pelt, formazione nata a Richmond negli anni 90, influenzata da ovviamente aspetti minimalisti musicali, aspetti ovviamente ambientali dronici, soprattutto aspetti psichedelici e chiaramente tutto l'aspetto connesso al folk e anche all'Indian Raga, che è importantissimo rispetto a tutto un discorso di flusso sonoro e di drone che ritroviamo e ritroveremo poi anche nel corso della seconda parte della trasmissione. Formazione che appunto dicevamo nata negli anni 90, è composta da Mike Gangloff, Patrick Best e Jack Rose. Ecco, qui dobbiamo fare ovviamente un piccolo omaggio a questo musicista tra i più importanti della scena folk, anche come autore solista, ha fatto varie cose anche di recupero folk sperimentale. Folk sperimentale, ma ad esempio uno degli ultimi lavori, l'ultimo del 2009, prima che appunto scomparisse, era dedicato alla musica folk tradizionale americana, riportata ovviamente in un'ottica di recupero, di ritorno, di quasi di celebrazione rispetto a un recupero chiaramente delle radici musicali anche di una certa terra americana. Jack Rose purtroppo ci ha lasciati il 9 dicembre del 2009 e dunque anche un omaggio a questo grande musicista, che appunto era una delle menti di questa formazione Pelt, che stasera inseriremo nella scaletta da un disco assolutamente importante, dove appunto Jack Rose era ancora presente, l'ultimo lavoro uscito proprio alla fine del 2009, dedicato al grande Angus McAlice, grande sperimentatore degli anni 60-70, che anche lui ovviamente è già scomparso da molti anni, che spesso, insomma, o almeno in diverse occasioni l'abbiamo inserito in vari contesti di trasmissione di 451 frammenti sonori, e poi ovviamente faremo anche un riferimento a lui stesso. Il disco è appunto A Stone for Angus McAlice, ripetiamo ancora, uscito poco prima della morte di Jack Rose, e dunque ci ascoltiamo Pelt, da questo disco la prima traccia, che è veramente un viaggio. Lasciatevi cullare, lasciatevi andare dentro questo flusso, questo drone meraviglioso di Pelt. assolutamente unico questo splendido drone, come ci ha oltretutto indicato il nostro caro amico ascoltatore, un drone orgiastico, così proprio assolutamente avvolgente, devastante sul piano. Non scrive organico lui, no? No, orgiastico. Ha scritto così. E dunque adesso chissà che orgia in testa. No, dal punto di vista proprio musicale, Pelt effettivamente in questo lavoro riesce a dare un tributo assolutamente azzeccato rispetto a un grande compositore come Angus MacLise. Ricordiamo il disco A Stone for Angus MacLise, uscito proprio alla fine del 2009, un disco recentissimo, e adesso stiamo sentendo in sottovoce, possiamo dire sotto la mia voce, sì, l'altro brano che fa parte di questo disco, composto appunto di due tracce che sono due droni meravigliosi in cui ci siamo anche noi stessi immersi totalmente dentro. Ricordiamo ancora, facciamo un saluto a Nicola Catalano, Nico Catalano, non ti ascoltava, non ci ascoltava, facevi la dedica richiesta tipo anni 80, il cecchetto, di con buon compleanno addirittura, roba cecchetto era oro, ricordiamo proprio radio che ne so, Radio International Central, Super Spazio, quelle cose lì, sì, vabbè, insomma, Radio Pollo era Bracardi, Radio Papà, infatti abbiamo fatto questo saluto, questa dedica, ma Catalano non era in collegamento e dunque non l'ha sentito, dunque glielo rifacciamo. Dunque abbiamo dedicato questo brano a Catalano, che insomma Jack Rose addirittura, no vabbè, ti si prende le responsabilità, vabbè, no, ma perché tra le prendi anche tu che in lo tutti stai dedicando, senso, sì, e poi soprattutto perché è un'anticipazione al compleanno prossimo del nostro caro Nico Catalano, che ha collaborato con 451 frammenti sonori all'inizio della nostra avventura, faceva la regia e tante altre cose. Vabbè, se vogliamo sulle tante altre cose che ha fatto, continua a farlo, tra l'altro. E noi dall'omaggio così a cuore aperto per uno dei nostri eroi degli ultimi anni, ovvero Jack Rose, che con i suoi Pelt ci ha fatto fare veramente tanti viaggi dentro il drone, forse tra i più belli sicuramente degli ultimi anni, degli ultimi 15 anni. Passiamo appunto alla dedica, l'ultima dedica appunto di Jack Rose e i suoi Pelt, fatta su disco, in questo caso a Stone for Angus MacLise, come diceva appunto Eliseo. E MacLise andiamo a prendere proprio dal suo capolavoro 1968-72. Queste le registrazioni di MacLise per Invasion of Thunderbolt Pagoda, disco straordinario, assolutamente non capito all'epoca. Anche proprio il personaggio MacLise difficilmente poteva essere capito anche in quei controculturali antagonisti addirittura fine anni 60, primi anni 70, perché veramente sfuggiva Angus MacLise non soltanto a quella controcultura, o se vogliamo a quell'antagonismo anche politico, sociale. E Angus MacLise si dà a una sorta di viaggio infinito, sia musicale che di fatto girando il mondo e soprattutto approdando a Kathmandu, dove non fa il solito viaggio fricchettone, diciamo che va a fondo, scopre musicalità di tipo ritualistico, che non sarebbe neanche una grossa novità, grossi minimalisti già fecero questi viaggi, ma MacLise inventa un suono sporco, un suono che va a colpire veramente quello che è la realtà probabilmente sonora, e quindi una sorta di registrazione neorealista si potrebbe definire tale. Se la Monte porterà all'eccelso, al sublime, queste ritualità musicali, con MacLise sembra proprio di viverci e di starci dentro. Questa è la particolarità che sicuramente ha colpito anche il grande Jack Rose con i suoi Pelt, appunto la dedica che gli fanno nel loro ultimo disco. E prendendo appunto il suo capolavoro che uscì anche per un film legato a Ira Cohen, anch'esso straordinariamente allucinante, straordinariamente astratto nel suo farsi, nel suo anche essere appunto vissuto, attraversato, una delle opere d'avanguardia sicuramente più importanti del cinema sperimentale, quella di Ira Cohen, appunto per Invasion of Thunderbolt Pagod o Pagoda, e McAllies si tuffa veramente in maniera completa e anche estrema, perché McAllies poi scomparirà, non si capirà bene dove era finito il suo grande fraterno amico John Cale, oltre che la Monte, Terry Riley, Terry Jenkins, cioè insomma stiamo parlando dei tra i più grandi compositori degli ultimi decenni di musica, soprattutto John Cale, che aveva uno strettissimo rapporto e che lo farà entrare per brevissimo periodo anche nei Velvet Underground, ma lui non voleva neanche sapere niente di Velvet Underground. Non avrà notizie per molto tempo del grande Angus McAllies. Si scoprirà dopo un po' di tempo che era morto. McAllies si fece cremare e fece disperdere le proprie ceneri, quindi una sorta veramente di oblio voluto, una negazione completa del suo vecchio modo di vivere, seppur appunto alternativo, antagonista, proprio la definitiva perdita. E in questo senso insomma McAllies rimane, come dire, il simbolo di veramente una ricerca continua e anche, diciamo, un po' estrema, appunto per uscire, per un'uscita insomma che non ci riporta sicuramente McAllies vivo, ma appunto da un'altra parte, e sicuramente le sue musiche ci accompagnano in questo viaggio infinito del grande Angus. E mi piange veramente il cuore, così sfumare Angus McAlise con uno veramente dei progetti più allucinanti di sempre, tra le musiche più visionarie sicuramente. E c'è da annoverare la musica di Angus McAlise per quel senso che dicevamo prima di realismo, che però si fa assolutamente magico senza richiamare per forza la letteratura, con il realismo magico che è tutt'altra faccenda. Qua più che di metafisica o di proto surrealismo si va a trattare assolutamente di un suono che si fa magico proprio nel suo divenire, nel suo essere dronico, quindi nel anche proprio tuffarsi nel suo essere così inondante. D'altronde poi drone si potrebbe anche definire dal verbo droning, affondamento, quindi una sorta di affogamento anche, è una materia in questo caso liquida che sovrasta e quindi impernia e come dire crea una sorta di totalizzazione anche un po' la musica, un po' molto, anzi per meglio dire, di McAlise ha questo grande potere poi che è stato appunto riscoperto veramente dopo tanti anni dalla morte di Angus McAlise. Molti giovani autori si sono rifatti, prima abbiamo sentito Jack Rose con i suoi meravigliosi Pelt, proprio rifarsi alle musiche di McAlise, non solo come suono che è quasi impossibile da ripetersi e da rendere più o meno simile, ma soprattutto come attitudine, questa attitudine nella perdita delle sonorità che si fanno veramente vaste, estese, a creare un mondo incredibilmente fantastico dentro appunto un suono che si fa sempre più magico nel suo divenire e, come direbbe Eliseo, nel suo dipanarsi. Oh, mi hai citato, ti ringrazio, una citazione importante, e da questa lunga e importante ma anche prima e seconda parte, ma giusta e puntuale su un grande come Angus McAlise, che lo stesso Max voleva mandare per tutta la durata del disco, 39 minuti, ma lo faremo, ma anche ragione per certi versi, perché insomma lo faremo, bisogna rompere certi quando. Steccati già non li rompiamo rispetto ai palinsesti normali, dovremmo rompere tutto e andare avanti tutta la notte fino alle 7, quando arrivano tutti quanti i personaggi chiave insomma di questa radio. Noi, andando oltre Angus McAlise, perché poi è difficile andare oltre Angus McAlise, andiamo a fare un salto temporale enorme dalle registrazioni che abbiamo appena ascoltato, dal 1968 al 1972, facciamo un salto piuttosto importante, arriviamo al 2004 per trovare una formazione che non è particolarmente conosciuta, ma che è sicuramente, almeno per gli appassionati del genere molto aperto, poi in realtà è molto molto ben seguita. Si tratta dei Davenport, formazione americana che si muove sempre all'interno di dimensioni folk and drone, ma anche per certi versi molto molto influenzate anche da una certa psicadelia e da un ragionamento musicale anche molto vicino a certa contemporanea, aperta anche in alcuni momenti a delle forme improvvisative piuttosto particolari nell'utilizzazione di strumenti acustici anche molto particolari e complessi, inseriti a livello sonoro in maniera assolutamente strana. Il suono è proprio la caratteristica di questo disco Tongue of Beer 2004, appunto, che è molto molto, potremmo dire, da cantino, un suono stranissimo che ricorda anche per certi versi delle sperimentazioni industriali dove il lo-fi veniva a marcare con un suono anche abbastanza aspro, spigoloso, non certamente particolareggiato sul piano della nitidezza sonora, ma appunto per quello estremamente ruvido e fastidioso. Beh, un po' quello che fanno gli americani da qualche anno. Sì, poi. Infatti poi gli americani americani, la scena americana, anche in settori differenti da quello che affrontiamo stasera, cercano appunto questo suono piuttosto ruvido e spigoloso. E ce l'andiamo a ascoltare dunque una traccia da questo disco dei Davenport. Thank you. Siamo rientrati in diretta dopo aver fatto un mix fra Davenport, che abbiamo presentato precedentemente con il disco Tongue of Beer 2006, per arrivare a Paul Metzger, musicista che negli anni 2000 si è affermato nell'ambito del folk sperimentale con chiari riferimenti a elementi ironici, soprattutto connessi a un raga indiano che emerge attraverso questo uso, ad esempio nel brano in questione, del violino e poi del banjo modificato a 21 corde, in una sorta quasi di trasformazione organica dello strumento del banjo per sembrare quasi diventare una sorta di sitar un sitar con delle nuove sonorità. In realtà, appunto, il modo particolare, questa modificazione genetica del banjo operata da Paul Metzger ha utilizzato e ha creato questo suono particolarissimo. Un autore sicuramente interessante, un virtuoso poi di vari strumenti, in particolare appunto di questo banjo modificato a 21 corde, ha lavorato anche con chitarristi importanti come Ben Chesney dei Six Organs o The Mintage, e anche musicisti come il batterista Chris Corsano e altri musicisti della scena americana. Paul Metzger dunque apre il discorso della nuova scena americana assieme a Davenport, che abbiamo affrontato in questa seconda parte della trasmissione, intervallata da Angus MacLeis, questo grande e genio importantissimo del passato, e per arrivare poi in realtà a un altro grande che sì, ha segnato il Novecento a livello musicale. Sì, partiamo Phil Niblock, che dovreste conoscere piuttosto bene. Nel frattempo non mi fare i gestacci tu. No, ti faccio vedere la foto di Paul Metzger con la palla sulla testa. Sì, una foto simpatica che trovate su Discogs, che spesso utilizziamo, così sapete anche quali sono i nostri trucchetti. Non mi ingrandire così tanto la foto, però sennò sembra mostruoso Metzger. E Phil Niblock, beh, di parole se ne potrebbero spendere tante, ne abbiamo già spese in abbondanza durante 451 in questi anni, è uno dei personaggi più importanti sicuramente della scuola minimalista, ma poi il discorso forse è più appropriato dentro la drum music, visto che il minimalismo di Niblock è qualcosa di assolutamente continuo, più delle strutture minimaliste di dei conosciutissimi quattro storici, La Monte, Riley, primissimo, e qui sottolineiamo primissimo Glass, e ovviamente Steve Reich. Rispetto a loro sicuramente c'è una continuità, una idea e una pratica anche del suono minimale che si va a dilatare in drone, forse più vicino a Alvin Lucier a certe forme di concretismo che poi prende piede dentro un discorso appunto di filo, ricordando appunto la grande opera di Lucier, quella appunto del trattamento del filo pizzicato. In Niblock c'è un trattamento del filo, in questo caso, visto che si tratta di string, si tratta di corde per questo touch string, si tratta anche di onde sinusoidali spesso utilizzate da Niblock, e gli strumenti veramente prendono una forma assolutamente non riconoscibile. È il flusso che interessa a Niblock più che la struttura minimale minimale, quindi si potrebbe parlare proprio di vero e proprio padre del drone music con Niblock. È uscito l'ultimo lavoro per Touch, un lavoro piuttosto ambizioso, a vari capitoli. Questo è un capitolo doppio, 2009 appunto Touch Strings, è uscito per Touch, quindi c'è un gioco anche di rimandi. Touch ovviamente l'etichetta che nacque come etichetta di musica industriale e poi che si è aperta appunto alle contemporaneità più visionarie, più meravigliosamente alla ricerca, alla sperimentazione. E Niblock quindi ce lo andiamo, come dire, a trattare come grande padre del drone, anche acustico e non solo. È stato anche un maestro appunto per quanto riguarda onde sinusoidali. Touch String in questo caso si tratta evidentemente di uno strumento acustico, perlomeno a livello nominale. Poi facciamo una scommessa e vediamo chi riconosce gli string qua. Infatti. Thank you. Meraviglioso questo lavoro di Phil Niblock, ultimo disco uscito 2009, Touch Strings, uno splendido lavoro che Niblock riesce ancora a mantenere alto il livello della realizzazione, della, soprattutto dell'ideazione di questo tipo di droni sonori, costruiti giustamente, come diceva Max in apertura di presentazione, su una commistione tra elemento elettrico, elettronico e acustico. Effettivamente è piuttosto difficile riuscire a scorgere la differenza, comunque le linee che vengono tenute dagli strumenti acustici a quelli elettrici e elettronici, proprio per questa commissione, questa creazione di un flusso unico, estremamente uniforme, ma anche ricco e frastagliato e sfaccettato di sfumature, di colori timbrici ma anche armonici, la creazione appunto di questi flussi che assolutamente uno ci si immerge dentro e quasi perde appunto la cognizione spazio-temporale, e questi flussi che poi hanno caratterizzato anche nel passato le grandi opere di questo straordinario compositore del Novecento, che ha iniziato la sua produzione musicale già dagli anni 60. Dunque parliamo ormai di 50 anni di produzioni musicali, di sperimentazione. Ed è 33, quindi sta facendo grandi cieli. Beh, sì, direi proprio di sì. Ormai insomma siamo vicini alla tua età, no? Sì. Dunque. E va bene, dunque siamo arrivati con Phil Niblock alla fine di questo percorso sonoro, che speriamo possa essere stato suggestivo per gli ascoltatori. Trasmissione dedicata ai droni acustici, iniziata e aperta con James Black Show, per passare attraverso Ben Frost a Broken Consort, Clawback, Zina Parkins e Iko Mori, Pelt, Angus McAlise, Davenport, Paul Metzger e Phil Niblock. Comunque, date le nostre pronunce che non sempre sono impeccabili, vi consigliamo ovviamente, per avere informazioni sul disco, sul titolo dei dischi, sull'anno di realizzazione del disco. Cioè, non sempre lo mettiamo. Non sempre lo mettiamo, stiamo cercando di farlo, anche perché alle volte è difficile, perché la produzione ufficiale molte volte come anno sfasa rispetto alla produzione musicale effettiva, alla registrazione del disco stesso. Dunque cercheremo di mantenerci sulla linea delle registrazioni più che della produzione dell'anno di uscita del disco stesso, o appunto che può molte volte essere postuma, e ovviamente notizie rispetto alla trasmissione. Qualcuno, se vuole riascoltare i brani o comunque la trasmissione, può riascoltarle in podcast sempre sul nostro Noblogs 451 frammenti sono noblogs.org. A questo punto non ci resta che salutare, e ricordando sempre che abbiamo all'interno del nostro Noblogs anche una pagina dedicata a questa collaborazione che comunque abbiamo portato in essere noi di 451 frammenti sonori con Albert Mayer, collaboratore del grande Pietro Grossi e grande compositore elettronico ed elettroacustico, nella sua ultima opera diffusa e diluita, e chiaramente vi aspetteremo per la prossima domenica. Sì, probabilmente appunto qualcosa che riguarderà o Mayer o addirittura Pietro Grossi, o vedremo un po' se mischiare le carte o inventarci qualche cosa. Comunque sicuramente nelle prossime puntate sentirete insomma Mayer, Pietro Grossi evidentemente non si può raggiungere visto che è morto qualche anno fa. E quindi insomma abbiamo comunque uno dei suoi più grandi allievi, quindi ben venga. E noi non abbiamo il tempo, noi siamo nel tempo. Infatti. E a domenica prossima. A domenica. Cari. Ciao. Noi non abbiamo il tempo, noi siamo nel tempo. Albert Mayer.